gamberetti. Quel che fa i gamberetti. Che lui è il Buba. Buba. Buba perché non mi fa male come Forrest Gump, il disastro. E allora, sì. Però dopo chiamo uno in affido, vero? La mia. Come si chiama? Mia? Mia. Ma è sua. Mia. È sua che là. Esatto. Però che là le mi ha dato Dio culo. Le mi ha dato Dio culo. Me l'ha messa lì. Che lei è sua sorella della sì. Buba, la mia. No, che la mia, le sue. Cioè, la mia, la mia. Della mia, ma è la tua. No, è mia, mia, le sua. È la mia, tua. E vai tutti i giorni alla gamba e alto, questo anche. Tipo. Però una volta metti la macchina sempre in corsa, adesso le metti medio a custosa, le metti a custosa e finì, e dopo ogni tanto manca il cane, lei via, questo qua, e qua Fabio, sto Fabio qua, ma secondo me ha dei problemi esistenziali. Vedessi Fabio, me l'ho visto, quando l'ho fatto io, era là che tendia alla mamma, l'hai inumato? Come stai? Stai bene? Tutto bene? E la non la risponde. Perché devono che oia, ma se no secondo me la voleva rispondere. La mia o la tua? La mia. Adesso mi diria di fare quella di radici. Quella è famosissima. Si può fare quella di radici? È molto semplice, Fede. È proprio terra terra, dai. Ecco, se non è terra terra, è radicio. Danduelo. Non so, è Danduelo quel Fabio lì. Ma lei è molto schivo, un personaggio molto. Sta arrivando il cazzo. Ma cazzo, la ganca, la cosa questa. Andai il broccoletto. No, è allora, devo raccontarvi l'antefatto di radici. Vi racconto? È la quella dei radici? Sì. Ma sì, dai, sono. No, che piace mia tanto. No, vai. Sì, sì, grazie. Aspetta che alzo il volume. Aspetta che alzo il volume. Alzo tutto il volume. Blusata. Blusata. Perché era venuto la fede, radici o broccoletti? Perché il broccoletto che ho visto, alzo tutto qua. Portati da un... Aspetta che alzo tutto, alzo. Niente, solo foglie. Anche alzo tutto, grazie. Infatti se sente una roba. Ci sono solo le foglie. Ma il broccolo è gustoso, è così? Ah, ma a volte che è un po' tossico. Da fioretta. Allora, infatti, come funziona, è così. Però che per tirare fuori quelle più vecchie. Le cose di mai ovvi duri la ciana però a parte scherzi la fa un desfritto desfritto del broccoli venivo proprio dalla ciana antefatto dei radici che non gli è i broccoli allora eravamo sotto le feste qua che le feste guardi serene sotto e canto il mio amico era un venerdì e al venerdì a Somma Campagna che è il Marcà è cato il mio amico Alfonso che non è l'Alfonso perché non è mica ancora mio amico può darsi che diventerà anche mio amico trettene ecco questo qua trova Alfonso Principe si chiama Alfonso Principe non è Principe lui si chiama così Alfonso Principe non è Principesco Principe Alfonso suo padre cieco. No, lei dal Molise, da Campobasso. Non è mia, cieco. Ma no, le orbo. insomma, beh, tira figa. Mai. Allora, cieco e sassetto. Allora, fa saffetto. Sondrio da, mi dire Alfonso, Sondrio ha dato la butina all'asilo. L'esilio. Sì, sì, l'asilio, devi dire esilio, devi dire tanti no. No, ma lui è Alfonso e lei da Campobasso che del mio esilio. La scuola materna. E mica Dio esilio, un po' esilio. Vabbè. Allora, passando dinanzi al banchetti, che tu dico, tu sai che bello dici di Verona, va, Fede, ti sei qui, e mi ha detto 2500 lire, costava, mi ricordo. E tu vai lì col sacchetto e devo l'esilio e voilà e sonemo e fuori se presenta la superiora madre Teresa di Calcutta, lo so, madre che cosa. E fa, ah, buongiorno signor principe, sono venuto a prendere la bambina, ah, bene, e adesso vado a chiamare. E questo signore, ah, mio amico Nicolo, che è proprio, sì, sì, che è problema, sì, sì, è venuto con me. E la superiora, che il superiore è come Bertone, che il benzo, l'occhio, l'occhio che vedi di là del muro, proprio. Falsi sono io, signore, sei giuda, no, sei tu mia, tu. E la superiore la vedi che ho i radici dietro il sacchetto. La me fa la superiore. Capito, ho detto niente. Dice, buongiorno madre, non doveva disturbare. Ma della troia. Mami non voleva disturbare. Cosa hai detto? Mami, non voleva, non doveva disturbare. Mami non voleva mia disturbare. Ah, ma niente, mi fai anche un cazzo. No, non doveva disturbare. Allora, quando dito, no, la dito non doveva disturbarsi, così qua che sotto che cosa? La mangiava tutti la dito. Sono uscito in un Raptus di rap a riuscire, che non c'aveva un po' di cose, ma mi toccava anche tutti i radici, appena accorto. E lì abbiamo fatto una canzoncina adatta all'uovo, all'uovo. All'uovo. E naturalmente un blues. C'è anche un ritornello che faremo insieme, sono due paroline proprio, sì, che le imparerete. E le un venerdì d'inverno, anche madonna, è superiore, dicalo, cioè, la superiore è capace, no, di tutto, no, Fede, allora, anche le superiore come, esatto, Bertone, esatto. O le Bertone o è la superiore. Bisogna andare anche sotto. O le lasciano, la gife, che sia la gife. Ma le sale dove lei la casa? No, allora, è possibile. Intanto che la Givi se la... Ah, che ne arriva una divisa adesso. Metto una canzone sulla divisa. Canzone adatta. Madonna. Una canzone adatta. C'è anche io a me stesso delle volte quando mi vedo. Allora, dopo appena avevo un Vicerville parificato. Ciao. Pensavo alle donne prima. Cosa è, dove va? Sì, no, ciao Nico, Nico. Cina, Chico, sono là. Dai. Come stai? Bene. Hai mangiato? Sì. Hai fuori